Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, bentrovati, Luca Tremolada al microfono. Oggi un graditissimo ritorno qui da noi, Antonio Dini, giornalista di Nova 24, del Sole 24 Ore, esperto in tecnologia, ha seguito lo sbarco sull'iPad, non ho più il fiato. Grazie per il bentrovato. Tra l'altro Antonio Dini è qui con me, con davanti un iPad, ma è soprattutto che ha... Viene fresco da? Vengo fresco da San Francisco e comunque da un periodo di prova full immersion in queste nuove diavolerie tecnologiche alternative al PC. Ecco, però Antonio, che in questo momento sta mostrando l'iPad, voi non lo potete vedere, però lo vediamo noi, ci racconterà una storia che ha a che fare con Apple, una storia che ha a che fare con l'università. È andato addirittura a scoprire qualche cosa che riguarda la Federico II. Questa storia la racconteremo però subito dopo le news. L'antitrust americana sta valutando se aprire o meno un'indagine su Apple. La società di Cupertino potrebbe aver violato le leggi antitrust imponendo che le applicazioni per iPad ed iPhone fossero realizzate usando solo strumenti di programmazione di proprietà di Steve Jobs. La notizia, scrive Reuters, è coincisa con un bisticcio di alto profilo tra Apple e Adobe Systems, che produce il software Flash ampiamente utilizzato per fornire video e realizzare giochi. L'Europa è fuori dal mondo digitale. Nella top 10 delle aziende di maggior successo sono europei solo 4 dei 54 siti più visitati. Ai primi posti Google, Amazon, eBay e Facebook. A puntare il dito contro l'arretratezza digitale dell'Unione è proprio la Commissione dell'Unione Europea. Il settore dell'Information and Communication Technology è responsabile del 4,8% del PIL europeo, circa 660 miliardi di euro all'anno, e contribuisce per il 30% alla crescita della produttività, aiutando le industrie a innovarsi grazie alle nuove tecnologie. Fisica delle particelle. A un mese dall'avvio dell'acceleratore più grande e potente del mondo, arrivano i primi dati. Per ora, però, si sa solo che le collisioni che avvengono nell'anello del Large Hadron Collider, LHC, del CERN di Ginevra, hanno prodotto un numero di particelle molto più alto del previsto. Questi primissimi risultati dell'LHC riguardano Alice, uno dei 4 esperimenti del superacceleratore e uno dei 3 a guida italiana. Parliamo di università, parliamo di podcast, parliamo di lezioni che si scaricano in un certo senso. Sì, parliamo di uno dei grandi e profondi cambiamenti che sono in corso nel mondo universitario, non solo italiano ma planetario, diciamo così, ovvero la possibilità per la didattica universitaria di ricorrere a nuovi strumenti, non per seguire una vecchia strada che era quella sia delle università online che della formazione a distanza, ma per, a quanto pare, integrare la didattica, quella vera, quella che si fa nei corsi degli Atenei, con strumenti tecnologicamente molto avanzati. Tra l'altro la storia che raccontiamo oggi è una storia italiana, perché molti conosceranno iTunes, molti conosceranno la Apple, molti conosceranno il podcast, però pochi sanno, anzi pochissimi sanno, che da quando? Da pochi giorni, da pochi giorni, la Federico II di Napoli pubblica delle lezioni su iTunes. Raccontiamo questo progetto e poi abbiamo il rettore della Federico II di Napoli che ci spiega il perché. La scheda. Le università al passo con i tempi sbarcano in rete, non per realizzare corsi di formazione a distanza alternativi a quelli in classe, ma per integrare i corsi esistenti e potenziare la capacità di comunicare il sapere agli studenti. E non solo. L'uso della rete per le università moderne non è infatti limitato alla sola posta elettronica e alle sole presentazioni in PowerPoint delle lezioni. L'università vive oggi, come si dice, al tempo dell'iPod, e proprio sull'iPod ha deciso di investire, letteralmente. Negli Stati Uniti nel 2007 Apple ha aperto la sezione gratuita iTunes U del suo negozio di musica digitale. Gli studenti e i curiosi di tutto il mondo, dentro iTunes U, possono trovare 250.000 lezioni registrate in podcast, provenienti da 600 università in tutto il mondo, e che sono state scaricate più di 100 milioni di volte. Lo scopo è rendere più efficace la didattica tradizionale, aiutando anche gli studenti più timidi a capitalizzare le lezioni. Ma iTunes U non è solo un vantaggioso ed economico canale di distribuzione interna delle lezioni universitarie. iTunes U è anche un potente strumento di marketing che consente di raggiungere un pubblico esterno, promuovendo l'università per i futuri studenti. E magari potrebbe creare quella federazione universale del sapere, raggiungibile gratuitamente in rete, che renderebbe più democratica la conoscenza e quindi più ricche le nostre società. La prima università italiana a sbarcare su iTunes U è la Federico II di Napoli, con una parte del suo progetto online Federica. Federica ha un anno dalla nascita, per Napoli è già un successo, con 3 milioni di visite web da 192 paesi e 1.600.000 visitatori unici provenienti soprattutto dalle ricerche su Google. iTunes U e i podcast di Federica Pod Studio sono un ulteriore passo avanti per l'Ateneo Campano, che un giorno spera di ritrovare nell'aggregatore di Apple anche le altre università italiane. Allora, siamo in collegamento con il rettore della Federico II, Guido Trombetti, buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo sentito nella scheda quest'idea. Com'è che è nata? Perché una università decide di produrre dei podcast che possono essere scaricati gratuitamente? L'obiettivo è essere al passo con i tempi e andare verso l'utilizzazione di quegli strumenti che sono familiari ai ragazzi. L'idea fondamentale è che tutto è completamente gratuito ed a disposizione di tutti, quindi ha anche una grande funzione sociale. Noi arriveremo in breve a 300 corsi scaricabili che riguardano tutte e 13 le facoltà della Federico II. Questo è un progetto finanziato dalla Regione Campania e che ha visto impegnato uno staff capitanato dal professore Carise, che ha una competenza specifica su questo argomento. Noi registriamo un numero enorme di ingressi già sul nostro sito. Adesso con lo smart su iTunes noi siamo in condizione. È chiaro che questo non sostituisce la didattica tradizionale, questo lo dobbiamo dire chiaramente, è un ulteriore supporto. No? 100 anni fa non esistevano i proiettori, poi ci sono stati i proiettori. Noi inseguiamo e cerchiamo di rimanere un passo con i tempi moderni. Professore, ma è stato criticato per questa scelta? Nel senso che è curioso, insomma, che un'università, anzi la prima università da quello che so, decide di fare questo tipo di operazione. È stato criticato dai suoi colleghi rettori? L'hanno dato del modernista? Se lo hanno fatto senza che io li sentissi. Io non credo, perché nulla togliamo a nessuno. Noi diamo un supporto e vede, la dimensione importantissima è che tutte queste lezioni, tutti questi corsi, le library, abbiamo una library che è eccezionale, sono a disposizione libera, perché in fondo il sapere deve essere di tutti. Lei sa, professore, questo è molto interessante, perché mi sembra di capire che dietro non ci sia solo l'idea di aiutare gli studenti a studiare meglio dandogli prodotti che loro possono utilizzare con gli iPod, con quello che hanno in tasca, insomma, ma anche di disseminare il sapere, di rendere di nuovo universale l'università, disseminare il sapere. D'altro canto, lei sa bene che chiunque può entrare in un'aula universitaria e sentire una lezione, anche se non è iscritto all'università, giusto? Giusto. Questo è in linea con la grande tradizione dell'università, se vuole con lo spirito profondo dell'università, che quello che si insegna deve raggiungere quanta più gente è possibile. Io la ringrazio tra l'altro per il suo prezioso tempo e per essere potuto intervenire in trasmissione. Continuiamo a chiacchierare, a capire un po' di più e anche un po' a esplorare il mondo dei podcast insieme a Dini e anche insieme a il professor Mauro Calise, che è il responsabile scientifico del progetto. Professor Calise, eccoci qua. Qual è stata la prima reazione che hanno avuto gli studenti? Cioè, sono scaricati questi podcast? Ma guardi, intanto va detto per gli ascoltatori che Federica nasce come progetto di web learning, quindi il podcast è un accesso, diciamo, recentissimo, ma come piattaforma Federica è online da oltre un anno e adesso abbiamo oltre 10.000 accessi unici quotidiani. E quindi è una piattaforma complessa che offre corsi, lezioni, offre una living library che è una selezione delle risorse web. Noi parliamo di web learning proprio perché spingiamo gli studenti a capire di più. Per quanto riguarda il podcast in particolare, anche qui noi avevamo già il podcast sulla nostra piattaforma, naturalmente con iTunes c'è stato un balzo importantissimo, noi abbiamo avuto nella prima settimana su iTunes oltre 30.000 downloads. Professore, la interrompo. È una bella cifra, diciamo, abbiamo oltre 1.000 abbonamenti, cominciamo, come dire, a fare audience. Professore, la interrompo un attimo perché è proprio vero, iTunes è un aggregatore molto frequentato dai giovani, voi siete la prima università italiana in lingua italiana che è presente con un podcast in questa sezione che si chiama iTunes U, cioè iTunes University, e io stavo guardando, siete in ottima compagnia perché c'è dentro dall'università di Warwick tutta la Ivy League, all'università di Harvard, si parla di praticamente qualsiasi cosa, dai corsi di storia sull'impero romano di Berkeley fino agli audiobook classici di Princeton. Insomma, mi sembra che questo rimetta assolutamente in ottima posizione anche il sapere italiano e la lingua italiana legata a questo sapere, che altrimenti sarebbe molto minimizzata. Nova Lab 24. Bentornati in trasmissione, sono con Antonio Dini e l'iPad e con il professor Mauro Calise, responsabile scientifico del progetto Federica, peraltro, perché tra l'altro si chiama, perché l'avete chiamato Federica? Ma insomma, è un po' un omaggio all'animo, diciamo, virtuale, leggero e anche un tantino più innovativo della Federico II. Ecco, quindi, cioè, e tra l'altro si trova così, se le va su Google, digita Federica, ci trova al primo posto, diciamo. Quindi il collegamento per gli ascoltatori che vogliano entrare nel portale, che ripeto è assolutamente libero, ci sono siamo, diciamo, quasi a 300 corsi, 5.000 lezioni e un numero crescente di podcast, e tutto questo scaricabile assolutamente liberamente e consultabile dagli studenti di tutta Italia, naturalmente, perché è chiaro che è un'offerta che non è limitata agli studenti della Federico II. Ed è un'offerta che, dicevamo prima della interruzione del traffico, vi mette come unica università italiana assolutamente di fronte ad altre importantissime università di tutto il mondo. iTunes è un aggregatore, offre un servizio di rimbalzo per i podcast, e questo mi sembra una cosa molto positiva, professore, anche dal punto di vista della presenza in rete della lingua e quindi della cultura italiana. Non c'è dubbio, infatti. Ma il nostro titolo di copertina è stato proprio un titolo su Dante, peraltro, come dire, consigliato dagli esperti di Cupertino, ed ha avuto un grande successo. Ma vede, in generale, diciamo, noi siamo convinti che questa è una strada che rivoluzionerà la didattica. Si parlava di iPad, io sono convinto con Dini che si tratti di uno strumento straordinario che sbancherà letteralmente delle università americane, dove il sistema integrato della conoscenza è molto più avanzato, dove ci sono, cioè, molte più risorse disponibili in rete. Ma è un'operazione che noi di Federica stiamo seguendo molto da vicino. Noi abbiamo un'interfaccia che sembra costruita apposta per l'iPad, chiunque va in rete si rende immediatamente conto dell'operazione, e che è costruita proprio nella logica integrata di uno strumento come l'iPad. Quindi siamo contenti che adesso siamo arrivati primi sul podcast di iTunes, ma contiamo di arrivare primi anche per l'utilizzo del web learning sulla piattaforma iPad, che sta diventando in qualche modo il trendsetter per quella che è la cultura universitaria, proprio per la sua capacità di integrare lo schema delle lezioni con le risorse elettroniche selezionate dai docenti. Ecco, una domanda che mi stavo ponendo è la lingua, cioè voi le lezioni sono in italiano, chiaramente, quando ci saranno e se ci saranno delle lezioni in inglese? Cioè, stiamo lavorando anche sull'inglese, ma è chiaro che il nostro campo è fondamentalmente l'italiano, e ci rivolgiamo alla platea studentesca della Federico II, ma anche, diciamo così, italiana. Tra l'altro a noi non è sfuggito il fatto che lei ha detto i tecnici, gli esperti, gli studiosi di Cupertino, cioè della Apple, le hanno chiesto Dante, cioè ho capito bene o... No, ho capito bene, nel senso che noi avevamo per esempio delle lezioni molto belle di diagnostica per le immagini, cioè il formato di Federica si presta molto anche ai video, loro hanno come dire, preferito la lingua italiana, ed è chiaro che in qualche modo la piattaforma Federica, così come altre piattaforme che altre università italiane vogliono sviluppare, si rivolgono in generale al pubblico, diciamo, degli italiani all'estero. Cioè, è chiaro che noi ci aspettiamo, e sicuramente molti dei downloads che abbiamo avuto non sono stati fatti dall'Italia, ma sono stati fatti da utenti di iTunes U che vedono l'occasione di potersi scaricare delle lezioni di una prestigiosa università italiana, però disponibili in rete. Assolutamente, e oltretutto mi permetta, molto meglio imparare l'italiano per sentire Dante in un podcast che non sentirselo con la pronuncia inglese di qualche professore, per carità, bravissimo, di Harvard o di Yale. Una domanda, professore, ma che costo ha questa cosa? Ovvero sia sbarcare su iTunes e fare questo passo di come dire, apertura del sapere alla rete, quanto costa all'università? Ma guardi, intanto noi l'abbiamo potuto fare, come ha detto già il rettore, grazie ai fondi dell'Unione Europea che attraverso la regione hanno finanziato. Questo è un progetto che viene da lontano, ci sono 5 anni di studio e 3 anni di lavoro, come dire, 24 su 24 di un gruppo di giovani professionisti bravissimi, dei quali siamo molto orgogliosi, che da, diciamo, 3 anni lavorano a questo progetto. Quindi è un'operazione sicuramente costosa, ma è un'operazione che sta dando come dire, dei risultati straordinari in termini, ma più in di, termini di visibilità dell'università, di visibilità. Beh, anche di marketing, come diceva giustamente lei, della lingua italiana, perché poi alla fine c'è molto una tradizione, come dire, francofona, no? I tedeschi anche stanno riscoprendo, in Italia facciamo pochissimo in questa direzione, e forse grazie al web si può fare veramente tanto di più. Ci sono decine di milioni di italiani all'estero che hanno l'occasione di avvicinarsi istantaneamente e gratuitamente alla rete. Ecco, professore, qual è la più cliccata? Qual è il professore che va di più? Qual è chi è che la materia che viene più scaricata, più richiesta? Dipende un po' anche, come dire, da quante sono affollate le aule. Noi abbiamo accessi molto alti per ingegneria e per informatica, per esempio, anche perché in questi casi abbiamo quasi un intero corso di laurea, ci arriveremo fra poco, però è chiaro che questo fa massa critica, nel senso che sapere di avere a disposizione online un intero corso di laurea, gratuito, sottolineo, aperto a tutti, beh, insomma, questo fa gola. Quindi io mi aspettavo più materie umanistiche, non so perché. No, ma le materie urbanistiche, come dire, anche sono seguite, lei deve partire sempre dalla base, diciamo così, in qualche modo naturale dei corsi, perché questi sono corsi di affiancamento. Poi certo, mano a mano che cresceremo, sarà una, probabilmente la direzione che lei intravede sarà una direzione molto più di tipo internazionale, certo. E quindi è una partita aperta. Abbiamo appena cominciato, nel senso, oddio, è un anno e più di rodaggio, però noi ci aspettiamo grandi cose. Ecco, professore, io la ringrazio e le faccio gli auguri per questa iniziativa. Tra l'altro, Antonio, noi dobbiamo anche ricordare il podcast di Nova Lab 24, mi sembra doveroso, che potete, visto che stiamo parlando di podcast, lo potete scaricare sia dal sito che anche dal Twitter di Nova Lab 24 e anche da Facebook, dove abbiamo una pagina con Nova Lab 24. Abbiamo un sacco di cose da dove si può scaricare le nostre trasmissioncine. Quindi non avete nessuna scusa. Quindi non avete nessuna scusa. Io vi ringrazio, l'appuntamento è sempre alle 16:30 per Nova Lab 24. Arrivederci. Nova Lab 24. Nova Lab 24.